Rodgers gets the snap. Blitz is on. Rodgers scrambles left, winds up rainbow. He's got Cobb at the 10 to the 5, yes! To the end zone. Touchdown and a dagger. Oh my goodness. An NFC North Division championship dagger of 47 yards. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di IPFN, la settima meraviglia, questa qua. Giorno prima del draft, 24 ore dal draft, io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matte. Ciao Sal, 24 ore dal draft e 48 dal meeting di Parma, quindi evento cruciale, esatto, Dell'off-season. Manca ormai pochissimo, magari verso la fine, se ci ricordiamo, ricapitoliamo per chi si fosse dimenticato alcuni dettagli. Però io vorrei iniziare con una grande ricorrenza, perché oggi compie gli anni uno dei quarterback più grandi nella storia dei Packers. Compie 32 anni, suo nome è Jay Cutler. Tanti auguri, Jay. Aspetta che partiamo con questo. Continua così, vecchio mio. Vediamo, se magari se lo cacciano via, non lo so. Però dopo ti faccio una domanda interessante su Cutler. Tanto diciamo le nostre solite... quattro stupidaggini e poi ti faccio io una bella provocazione su Cutler. Un po' come la provocazione che avevamo fatto ieri su Lacy e Gordon, di cui parleremo dopo. Comunque, quella anche dopo, oggi... però quella non è poi dopo una provocazione, però dipende, no, anche dopo, la teniamo, dai. In realtà oggi non abbiamo le solite quattro cazzate da dire, ma ne abbiamo 400, perché ci sono un sacco di cose di cui vorremmo parlarvi. E in realtà cominciamo con la più stretta attualità, nel senso, intanto sono ufficiali le due date in cui verranno celebrati gli ingressi nella Hall of Fame di Wolf il 15 novembre, nell'intervallo della partita contro Detroit, e si sapeva già, ma adesso è anche ufficiale, l'ingresso nella Hall of Fame dei Packers e il ritiro della maglia di Favre il 26 novembre, nell'intervallo del Thanksgiving Game. Wolf è stato eletto nella Hall of Fame a gennaio ed è il 22esimo Packer ad entrare nella Hall of Fame. E quello di Favre invece è il sesto numero ritirato dai Packers. Comunque, beh, avremo modo di parlare anche di questo più avanti, quando si avvicineranno questi eventi. Per la felicità di Rolando, vero? Esatto. Ciao Rolando, grazie per essere venuto in diretta oggi. No, doveva venire in diretta, poi insomma non ce l'ha fatta e niente, ci ascolterà forse. Speriamo. E sentirà quando lo finiremo. In ogni caso, altra notizia di ieri o l'altro ieri al massimo, il fatto che secondo ESPN, Rob Demoski in questo caso, i Packers non utilizzeranno l'opzione del quinto anno per Nick Perry. Intanto volevo spiegare cosa sia l'opzione del quinto anno, perché anche io l'ho scoperto da poco, nel senso non ero molto addentro a queste cose. Fondamentalmente, dal nuovo contratto collettivo in vigore dal 2011, i contratti dei rookie sono stati limitati a 4 anni e solo per i giocatori scelti al primo giro c'è l'opzione del quinto anno. Il team la può esercitare fino a un certo periodo, in particolare quest'anno entro domenica, e la particolarità di questo quinto anno che è deciso in partenza, per cui un prezzo stabilito a seconda della posizione in cui il giocatore è stato draftato, ed è totalmente garantito. Per quanto riguarda Perry, sarebbe stato di 7,75 milioni di dollari, che è molto di più di quanto abbia dimostrato di valere fino adesso. Sì, dispiace. Secondo me nell'ultima parte d'anno ha dimostrato di poter stare a roster. Ovviamente quella è una cifra esagerata, però se pensiamo che per esempio il quinto anno esercitato da Indianapolis per l'Acus 17, anche se magari ci sarà una ristrutturazione con un prolungamento di contratto, cosa che secondo me succederà anche per Perry, a meno che questa non si rompa, tocchiamo quello che dobbiamo toccare o faccia schifo, detto proprio in inglese, e secondo me un'estensione gli verrà data, tipo quella che è stata data anche a Mike Neal, magari 2 anni gli danno sicuramente, secondo me. Sì, tra l'altro ieri invece i Redskins hanno esercitato la loro opzione per il quinto anno di RG3, di Robert Griffin, e la sua costa un po' di più, 16 milioni, che totalmente garantiti per uno che è rotto un giorno sì e l'altro pure, non so quanto sia lungimirante. A parte quello, il fatto che sì, con tutti i punti interrogativi che ha RG3, anche se alla fine, al primo anno, ricordiamo che ha portato i Redskins, li ha portati ai playoff, poi si è rotto e quindi no. Poi c'è stato il cambio di coach, perché da Shanahan si è andato a Jay Gruden, e ci sono stati molti punti interrogativi, insomma, però Lo dicevi te prima della trasmissione, le due parole che abbiamo fatto, sono tutti problemi che magari ce li hanno chi non ha un franchise quarterback, come dicevamo prima. Quindi, cavolo. Quindi ci può anche stare la scelta di dare il quinto anno. Ricordiamo che per la RG3 Washington si è quasi svenata, perché mi pare abbia fatto trade con i Cleveland, mi pare, può essere, con tipo due prime... Con St. Louis, scusami, no, con St. Louis, esatto. E gli ha dato tipo tre prime, mi pare, gli ha dato, no? Sì, qualcosa del genere. Praticamente, penso che St. Louis si è rifatta la difesa completamente con quelle scelte, perché... Tra l'altro anche nella partita della scorsa stagione c'è stato Washington contro St. Louis e Fisher ha mandato come capitani i giocatori acquistati tramite il draft nella trade no, con Washington nei vari anni. Non una trollata colossale, sì, sì. Bellissimo. In ogni caso, noi oggi siamo qui per parlare principalmente di draft. Quindi io volevo iniziare con alcuni dati generali, visto che magari non siete tutti così addentro a queste cose. Il primo giro è domani sera, o meglio domani notte, alle 2 ore italiana. Potete vedere sul sito dell'NFL, di solito lo fanno vedere in streaming, NFL Network, streaming illegali, fate voi. E, dura abbastanza, per cui... Chi ha il Game Pass lo può vedere sul Game Pass, ricordiamo. Esatto. E, mentre invece il secondo e il terzo giro saranno nella notte tra venerdì e sabato, quindi tra l'1 e il 2, giusto? Sì, esatto. Sì, comunque tra venerdì e sabato. E i giri dal 4 al 7 saranno invece sabato 2 maggio, quando noi saremo a giocare a flag e a fare il meeting. Esatto. Per chi vuole, esatto, perché penso che i Packers la domani notte ce li hanno verso le 5, secondo me, mi pare dicessero, o tra le 4 e le 5, penso dovrebbero, sempre che scegliano, a meno che non si fa scegliere di fare poi alla fine trade down. Ecco, quello sarebbe un gran casino, perché se aspetti tutta la notte e poi fanno trade down e non scelgono, un po' rode. fa un po', un po' di elevare. Sì, fate voi i vostri calcoli, nel senso i GM avranno tempo 10 minuti per effettuare la scelta nel primo giro, poi dal secondo diventeranno 7, dal terzo al sesto 5 minuti e settimo e compensatory picks saranno 4 minuti, quindi poi un po' si snellisce. Potete vedere anche su ESPN nel caso. E dopodiché, ecco, visto che parliamo sempre delle trade up and down, volevo raccontare un attimo come funziona, nel senso, un po' vengono fatte a caso probabilmente, però c'è una tabella delle trade, del valore delle trade, che è stata, penso, introdotta negli anni 90 da Jerry Jones e Jimmy Johnson, può essere? Guarda, non lo so che c'è questa tabella, l'ho anche vista, tipo quella dei punteggi del Decathlon, mi sarebbe da dire, non si è mai capito un cavolo di come funziona quelle regole, però sì, il vecchio sì, Decathlon, adesso sono cambiate, quindi... Io se la trovo, dovrei avercela qua sul desktop perché me l'ero preparata, e fondamentalmente ogni pick in valore assoluto, quindi non per round, ha un valore decrescente, il primo assoluto ovviamente ha più valore di tutti gli altri decrescono, e fondamentalmente viene usata per, che ne so, io ti dico ti do la 28esima assoluta in cambio della prima, però tu cosa mi devi dare? E quindi fondamentalmente si fanno le somme per far venire fuori un valore che equivalga alla scelta più alta che si vuole andare a prendere. Tutto qua, è una roba di numeri, non so bene come sia arrivato Jerry Jones a fare quei numeri, comunque la stanno ancora usando, è abbastanza in voga ancora. E dopodiché, no, non l'ho trovata, volevo fare qualche esempio. No, io una cosa che ho sentito, ieri, che non sapevo neanch'io, è per esempio le trade che avvengono durante il draft, per esempio. Come funziona? Perché ovviamente in quei 10 minuti in cui le squadre devono scegliere, ovviamente non c'è il tempo materiale per fare con scambio di contratti, firmarli, scannerizzarli, mandarli in lega. E quindi praticamente è tutto telefonico, praticamente rimane. Quindi è tutto sulla parola di uno dell'altro. Cosa che non sapevo, questa cosa qui, interessante, secondo me. Ah, tra l'altro invece avevo visto uno speciale sul draft qualche tempo fa, erano tipo i 10 migliori momenti nella storia del draft, e uno dei posti maggiori era occupato da Minnesota, che per ben due volte negli anni 90 non era riuscita a dare in tempo la propria scelta al primo giro. Quindi, questo per dire sì, che infatti, se tu entro i dieci minuti o i minuti dei round successivi, ovviamente, tu non fai la scelta, praticamente perdi il diritto di scegliere e entra, va on the clock la squadra successiva e tu dovresti scegliere dopo questa squadra qua, mi pare sia una cosa del genere. Sì, una cosa così. Ad ogni modo, informazioni generali penso che le abbiamo date. Domani, quindi fra poco più di 24 ore, sarà l'undicesimo draft di Ted Thompson come GM dei Packers. Stavo guardando oggi la dope sheet uscita sul sito dei Packers, che è sempre piena di informazioni della Madonna. Stavo guardando che, vediamo un po', mi sono perso. Ok, vabbè, finora 96 scelte, 51 attacco e 44 difesa, vabbè, niente di che. Ho visto qual è la squadra di college da cui ha attinto più giocatori Ted Thompson, che è Iowa, con 4, tra cui Mike Daniels. E lo cito perché in alcuni mock draft, che poi andremo magari a dire, uno dei giocatori che viene visto come accostabile ai Packers è proprio un giocatore di Iowa, un defensive lineman che si chiama Carl Davis, che ha giocato con Daniels, nel senso lui era freshman, credo, nel momento in cui invece Daniels era l'ultimo anno, è visto come un giocatore che possa essere appunto d'aiuto, in particolare è nel mock di Greg Bedard di Sports Illustrated, e lui motiva questa scelta così, due punti: sono stanco di vedere i Packers con una defensive line piccola e maltrattata. E quindi abbastanza... Non sono lui! Esatto, mi sa che... Vabbè, abbiamo Raggi quest'anno, dai, che te... L'amico di Rolando sempre, perché Rolando torna sempre nei nostri pensieri. In realtà io ho cercato di fare una sintesi dei mock draft più interessanti e che non siano i soliti mock draft in cui ognuno dice la sua senza poi un minimo di senso. Nel senso, questo qua di Bedard era interessante perché lui diceva: io lo faccio con semplicemente in mente quello che secondo me dovrebbero fare le squadre, mentre invece sempre su Sports Illustrated Peter King dice: io ho parlato con un sacco di gente ultimamente, tra scout, GM, persone del front office, per cui il mio mock draft lo faccio pensando a chi secondo me, dalle informazioni che ho ricavato, prenderanno le varie squadre. Non ho cagato gli altri, quindi non so chi possano prendere le altre squadre, ma per quanto riguarda i Packers lui dice che secondo lui è molto probabile che i Packers prendano Denzel Perrimer, che è un inside linebacker di Miami, tra l'altro stessa università e stesso numero di maglie, il 52 di un signore, si chiama Ray Lewis, non lo fai. Perché ricordiamo che Ray Lewis ha rischiato di arrivare i Packers nel draft in questo shadow, per 2000 e... non mi ricordo, 2005, no, 2002, no, non ricordo prima, quando... 2001, sì, scusami, sì, esatto, perché mi pare che poi aveva vinto il Super Bowl da rookie, mi pare, forse ha vinto, e mi avevo letto, non mi ricordo dove, però che ha rischiato fortemente di arrivare i Packers quell'anno di Lewis, era Al Wolf, mi pare fosse il general manager all'epoca, e so che lo voleva praticamente, invece mi pare che altri l'ha scelto quella pick prima, una cosa del genere, mi pare, però vado a memoria, potrei dire una puttanata ma colossale, questa cosa qui, però sono sicuramente dopo che... controlliamo. Esatto, dopo controlliamo eventualmente. Perima, dico subito, io Perima non lo conosco, ma l'ho sentita, questa notizia l'ho sentita da te, mi ha detto due o tre cose e da quello che mi hai detto sembrerebbe uno che dà mazzate fortissime, esatto, praticamente, sì. a qualsiasi cosa passi, praticamente. Quindi a me piacerebbe, fosse qua la scelta e questo è il suo segno distintivo, per me io ci sto. Tra l'altro ho cercato conferma a questo rumor di Peter King, che di solito non è uno che le spara, nel senso abbastanza affidabile, e questa cosa l'ha detta anche tale Josh Liskiewicz, che è di Draft Breakdown, che ha detto che negli ambienti lo danno come un done deal, quindi una cosa fatta, Green Bay che prende Perryman alla 30, ovviamente se sarà ancora disponibile. Poi Tony Pollin ha aggiunto un altro dettaglio, che è quello secondo il quale sia Alonso Highsmith, ex di DU, quindi di Miami, ad essersi innamorato di Perryman quest'anno, e spesso a quanto pare si innamora dei prospetti di Miami, e che quindi se disponibile alla 30 probabilmente romperà le scatole a Ted per convincerlo, se non fosse ancora convinto, a prenderlo. E qualche informazione su Perryman, perché se poi finisce davvero ai Packers, almeno noi ve l'abbiamo detto prima. Scoop! Esatto, quindi inside linebacker Miami, 5'11, quindi leggermente undersized, abbastanza undersized, per il prototipo dell'inside linebacker, 236 libbre, ha corso alla combine 4,78, 40 yards, e nel 2014 110 tackles, di cui 9,5 for loss, 2 sack, 3 forced fumble, un intercetto e 5 passaggi difesi. E viene visto come un linebacker da altri tempi, fondamentalmente all'antica, un gran picchiatore, gran colpitore, fenomenale contro le corse e probabilmente il più pro ready di tutto il draft. E non viene visto come un grande atleta, nel senso, probabilmente c'è qualcuno che eccelle più di lui nei measurements che vengono fatte alla combine Pro Day. E la sua pecca pare essere quella del coverage. Viene visto come un giocatore con una grande work ethic, come un leader in campo e fuori. Io mi sono visto i snap difensivi contro Florida State, avrei voluto guardare tutta la stagione, ma non l'ho fatto in tempo. E ho visto effettivamente che arranca un po' in coverage, però tira delle lignate che è una cosa assurda. È proprio un gran placcatore, non si lascia superare, nel senso, se arriva un po' lungo, ti placca anche per i piedi, cioè, ti placca in ogni modo. Addirittura stava per, penso abbia provocato una concussion a O'Leary, il tight end di Florida State, con un colpo a campo aperto, insomma, una roba assurda. È sempre uno dei primi a arrivare sul portatore di palla. A volte è addirittura troppo veloce, nel senso si lancia e sbaglia il placcaggio perché si lancia con troppa foga. Però a me sinceramente è piaciuto. Non so se per gli standard comuni può essere considerato un primo giro, però penso che soprattutto per la run defense che avevamo l'anno scorso possa fare molto comodo. Allora, io, ripeto, da quel poco che ho letto dei draft quest'anno, lo vedevo spesso accostato a noi anche al secondo giro, ok? Quindi non vorrei fosse un piccolo reach, ok? Detto come si vuol dire. Detto questo, non lo conosco minimamente, se Ted lo prende al primo giro avrà le sue buone ragioni, penso che mi fido. Se il suo unico difetto è la coverage, diciamo che per un linebacker non è il peggiore dei difetti, perché insomma, voglio dire, comunque passiamo da un AJ Hawk che insomma in coverage è stato disastroso, soprattutto negli ultimi anni, Brad Johnson che non ne parliamo nemmeno, ok? Con la differenza che loro due erano anche disastrosi sulle Esatto, corse, per cui esattamente. Quindi se fosse quello, se fosse anche solamente mediocre nella coverage, sarebbe una grossa picca. Ricordiamo che lo stesso Wagner, grandissimo middle linebacker dei Seattle, dei Seahawks, scusami, comunque cioè, non è che eccella nel coverage, diciamo, okay. Non è la qualità primaria di un buon linebacker centrale, insomma, quella lì. Poi, per l'amore di Dio, se c'è anche quella qualità, meglio ancora, però, voglio dire. Di solito il middle linebacker ha altre qualità, vuol dire anche Relius, secondo me, non, soprattutto non, era lento e comunque poteva essere abbastanza carente in quella qualità. Detto Sì, questo, ripeto, esatto. io non l'ho visto, non lo conosco, però in te dei trust, te la chiudo così. Un'altra cosa invece interessante era di Nathan Yankee, Pro Football Focus, spesso ospite al podcast di Caribou. E lui ci sei ancora? Non vorrei che fossi caduto. No, Ok, ci ci sei. sono. Questo Nathan Yankee di Pro Football Focus ha detto in una video intervista che ho visto che per lui la posizione di cornerback non è assolutamente una need per Green Bay per la presenza di Hayward. Lui cita un dato, come sappiamo Pro Football Focus fa di dati che nessuno conosce, la propria forma di sostentamento, e ha citato il dato di due cornerback della Madonna che sono Sherman e Revis, dicendo loro vengono targettati una volta ogni 8 snap di coverage che giocano. E Hayward invece una volta ogni 10, cioè praticamente le squadre non lanciano mai verso di lui. Questo perché fa molti intercetti, difende molto bene i passaggi e non concede molti completi. Quindi fondamentalmente lui dice la need a cornerback è semplicemente una need per quanto riguarda la profondità del reparto e fosse in lui indirebbe questa need verso i giri intermedi, dal terzo in poi, fondamentalmente. Invece, per lui, la need più pressante per i Packers è la defensive line, seguita da inside linebacker. Quindi, la vedo un po' completamente stravolta rispetto a quello che siamo stati abituati a sentire. Posso dirti, sinceramente, sì, tu sai, al fine a cornerback tu hai Hayward, Shields, Hyde, perché ovviamente lo devi considerare come un cornerback a questo punto, e Mitch Goodson come quarto, ovviamente. E, diciamo che negli spazi titolare sei coperto, ok? Quindi un cornerback sicuramente arriverà, uno o due cornerback arriveranno. Però effettivamente non è che, vuol dire, sei nella situazione che devi mettere Mike Daniels a coprire Alshon Jeffrey. E quindi voglio dire, forse sì, inside linebacker, defensive line non la vedo scoperta come posizione, sinceramente. La vedo magari scoperta nella qualità, magari, però non come nel numero dei giocatori a roster. Probabilmente è una posizione che, insomma, verrà sicuramente... occupata dalle scelte di Ted, sarà quella di outside linebacker. Ecco, secondo me è una cosa che non se ne parla tantissimo in giro, però ogni tanto salta fuori. Ci accostano spesso un outside linebacker di UCLA, che io non conosco minimamente neanche quello. Ok, e quello secondo me è un po' sottovalutata, perché se pensiamo che Clay Matthews varrà a giocare buona parte dei suoi snap come inside linebacker o comunque spostato da una parte all'altra, rimane alla fine come lasciatori esterni come Peppers, Neal e Perry. Forse si è più scoperto lì chi è cornerback, magari. Poi tra l'altro, se si guarda le cose in prospettiva, nel 2016 Peppers avrà 36 anni e con un contratto fatto per non essere onorato nel terzo anno di contratto. Esatto. E, mentre invece Perry e Neal saranno free agents. Esatto. Giusto? Esatto, sì, per assolutamente. Cui, fondamentalmente non è una posizione così coperta e non così a lungo, quella di outside linebacker. Tra l'altro questo qui lo dice anche Pete Doherty di Press Gazette. C'è poi chi invece la vede in maniera più tradizionale, tipo Ryan Wood, sempre su Press Gazette, che dice, secondo me la need principale che devono indirizzare subito, già dal primo giro, è inside linebacker, per due motivi. Uno, per poter tenere Matthews sempre all'esterno il suo ruolo naturale, e due, perché la classe di quest'anno è abbastanza povera di talento, insomma, sì. Per cui prima ci riprendiamo e meglio è, fondamentalmente, dice. Io non sono tanto d'accordo, anche perché l'anno scorso, la prima parte di stagione, Matthews non è che stesse facendo grandi cose giocando sempre all'esterno. No, infatti. E invece questo essere praticamente ovunque, in tutta la difesa, col suo stile di gioco ha energizzato tutta la squadra e i risultati si sono visti. Sì. Poi, No, io ci sono, e anzi, posso, se mi permetti di aggiungere una cosa, poi magari possiamo ricapitolare le risposte che hanno dato anche gli altri al post di presentazione alla puntata di stasera. Matthews come outside linebacker è una forza della natura, lo sappiamo tutti, ok? Non dobbiamo, però per essere questa forza della natura, questo game changer, deve essere al 100% della sua condizione. Beh. Esatto, sì. È un giocatore che, quando non è al 100%, è anche solamente all'80%, il suo modo di giocare ne risente così tanto che secondo me diventa un giocatore come gli altri. Quindi, e nella posizione di outside linebacker, secondo me, soffre molto di più di quello che potrebbe soffrire come inside linebacker o come magari come giocatore spostato da una parte all'altra. E non mi ricordo, forse l'ha detta Bill Johnson sta cosa qui nel podcast di Wildy, ed effettivamente è vero. Ricordiamo anche quando l'anno scorso, due anni fa ormai, ha avuto quell'infortunio al pollice, che ha voluto ci ha giocato sopra e poi si è rotto definitivamente, le sue prestazioni sono nettamente scadute. Con ciò non voglio dire che diventa un giocatore scarso, non è però quel game changer a cui siamo abituati lui essere, ecco, tutto qua. Quindi sì. Legge Rusher, secondo me, potrebbe essere una posizione che nel draft potrebbe venire sicuramente coperta nei giri alti del draft. Quindi, tra l'altro, noi abbiamo posto la domanda ai nostri avidi ascoltatori e abbiamo chiesto semplicemente di dirci cosa passasse loro per la testa a poche ore dal draft. E una cosa che era venuta fuori, intanto vabbè, leggo qualche risposta e leggo prima quella di Gianni, così impara. Gianni Ciglioli, che dice che vorrebbe una trade per Mariota. Quindi certo, adesso, la Rogers impari a dire stupidate, esatto. No, qui torna serio, dice che a Ted chiede uno dei suoi soliti draft con belle scelte al terzo giorno e senza fregature al secondo. E Antonio Capaticcio invece spera che scendano alla 31 tra Shane Ray e Randy Gregory, che recentemente hanno avuto problemi con le canne, la Maria, eccetera. E adesso parliamo nello specifico di Shane Ray, che sono considerati dai 10-15 migliori prospetti di questo draft e potrebbero scendere proprio per questi problemi legali di tempismo nelle scelte che fanno pochi giorni dal draft. Vabbè. A questo si ricollega anche Francesco Fele, a cui Shane Ray piace un sacco e ci chiede che cosa ne pensiamo. Adesso arriviamo. Stefano Chinappi dice che non vedrebbe male neanche prendere un'altra safety, Rolando dissente fortemente, dicendo che non vuole una safety e che se non c'è Kendricks alla 30 si dovrebbe fare una trade down con i Jets che punteranno a Brett Hundley, che è un quarterback. E anche lui piace molto Shane Ray, che è considerato da sbavo. E per quanto riguarda invece, vediamo un po' cos'altro c'era. Nicolas Subrani ci chiede che cosa dovrebbe fare Ted perché il nostro draft ci soddisfi. Allora, andiamo con ordine. Intanto l'altra domanda che avevamo fatto era una domanda provocazione Gordon Lacy, ossia chiedevamo se Lacy fosse disponibile, buonanotte, se Gordon fosse ancora disponibile alla 30, cosa facciamo? Lo prendiamo e poi alla fine di quest'anno facciamo una trade con Lacy? E le risposte sono state una sfilza di no, in particolare Francesco Fele, Rolando, Matteo Bolcato, e a me sinceramente non sembra come una cosa così peregrina, posto che magari, come dice Rolando, non ci sarà neanche la 30, Melvin Gordon esatto. Io l'auguro per la sua carriera, però spiegalo tu qual era il ragionamento. Visto allora, il ragionamento è questo, secondo me. Allora, parliamo di, io sono contentissimo di Lacy e che Dio ce la preservi e che giochi a Green Bay, però vuol dire, lui ha quest'anno e l'anno prossimo, ok? Gioca in una posizione che nella moderna NFL non è più così dominante, così importante, diciamo. Diciamo che è un ruolo che dove noi siamo stati scoperti per anni, ok? E che poi abbiamo coperto poi alla fine con Lacy, che è sceso 2 anni fa e noi l'abbiamo pigliato alla fine del secondo giro. Quanti soldi può comandare Lacy l'anno prossimo, fra 2 anni, alla fine, almeno 10 milioni all'anno, possiamo dirlo? Ci sta? Come sì, tra gli 8 e i 10, tra gli 8 e 10, okay. Considerando che il salary cap sale. Sì, però tra gli 8 e i 10 mi pare che sia una, onesta, diciamo, ok? Non so se avremo il cap per poterlo pagare, prima cosa, e lo pagheresti tanto, così tanto, un giocatore che fondamentalmente potrebbe essere sostituibile, ok? E che potrebbe essere fra 2 anni, per il modo in cui corre Lacy e appunto per, in una posizione così logorante come quella di Runningback, magari fra 2 anni avrà già finito gli anni migliori della carriera. Quindi se Melvin Gordon arriva per qualche strano motivo alla 30, prima di passarci sopra, io ci farei 2 pensieri, cioè magari ce li farà anche Thompson eventualmente, e non lo prenderei, gli farei giocare insieme 1 anno, l'anno prossimo scade anche Starks, tra l'altro, ricordiamo, ok? E magari l'anno prossimo lo devi via per una seconda, una terza scelta, ma dai, qualcuno trovi un Dallas che te lo dà per quella scelta lì. No, questo era il mio modesto pensiero. Poi sì. A me, come sai, piace molto Melvin Gordon, ma piace molto anche Lacy, per cui sinceramente sarei un po', come si dice, torn tra queste due cose. Però non la vedrei appunto come una mossa stupida, anzi, lungimirante, se vuoi, qualcuno potrebbe dire che bisogna vincere adesso e non fra 2 anni, però nell'ottica di una continuità di progetto, di squadra, ci può stare benissimo, anzi. Certo, è che non puoi pagare tutti, ovviamente, quindi... Esatto, sì. Però, comunque, no. Adesso noi non sfuggiamo alle domande che ci fanno, per esatto. Cui... Io partirei da rispondere alla domanda di Nicolas Subrani che, ripeto, ci aveva chiesto che cosa dovrebbe fare Ted perché il nostro draft ci soddisfi. Allora, mi basterebbero due Hall of Famer e 3 perennial Pro Bowler. E Mariota. No, Mariota anche se non me lo prendono, ma mi sono contento lo stesso con Rodgers. No, scherzi a parte, non lo so, spero di... Mi basterebbe che prendesse la metà dei giocatori che potesse contribuire subito, sinceramente. Sì, io vorrei che facesse un draft dei suoi, cioè che non andasse fuori dal seminato come ha fatto nel 2012, il suo peggior draft all time, probabilmente. Cioè che se proprio debba fare delle trade, le faccia down per accumulare più scelte. E un draft equilibrato e non solo difensivo, visto che sempre nel 2012 le prime 6 scelte erano solo difensive, penso che sia molto poco lungimirante. E quindi che Ted faccia Ted. Poi, in realtà, il valore dei singoli giocatori si può stabilire più avanti, nel senso possiamo guardare i filmati del college, ma valgono fino a un certo punto. Esatto. Però già anche solo che Ted faccia il Ted mi soddisferebbe, insomma, e spero proprio che lo sappia anche lui, nel senso quando è andato fuori dal seminato appunto non ha portato molto bene. E l'altra domanda era invece su Shane Ray. Io ieri mi sono fatto uno scouting report della Madonna, cioè mi sono guardato 4 partite di Shane Ray. Aiuto. E sono gli snap difensivi, era tipo con Dest Game. Ah, ok. Allora, lui intanto a Missouri, il college tra l'altro in cui ha giocato anche Michael Sam, e tra l'altro aveva una produzione simile, e questo fa storcere il naso a qualcuno, visto poi il non successo che ha avuto Michael Sam. Michael Sam, uno dei grossi problemi è il fatto che ha dichiarato di essere gay, quindi cioè, per l'amore di Dio, può aver contato molto anche questa cosa qui, eh. Sì, probabile. Comunque, giocava defensive end in una 4-3, è un 6-3 per 245 libbre, è un redshirt junior, corso le 40 yard molto velocemente, in 4.45 alla combine, è diventato titolare solo nell'ultimo anno ai Tigers, ha fatto una grande stagione da defensive end con 13,5 sack, che è il record di Missouri, e 22 tackle for loss. E pur avendo sempre giocato defensive end al college, visto come un outside linebacker perfetto per la 3-4, quindi per i Packers fondamentalmente, è stato defensive player of the year della SEC e pare possa scendere, dicevamo, per problemi con Maria. E in particolare la Maria l'hanno trovata in macchina. Che non è una signora di facili costumi, ma è... In realtà questa Maria lui non l'aveva fumata, ma gliel'hanno trovata in macchina fresca, e quando l'hanno fermato i poliziotti in Missouri con l'accusa di andare troppo veloce. Tra l'altro sottolineerei il fatto che fosse in Missouri e non in Florida, quindi probabilmente non era la roba di Guyon. Però l'altro suo problema è questo infortunio al piede che ha avuto nella sua ultima stagione al college, che secondo alcuni dovrebbe essere operato al piede, secondo altri no, quindi questa qui è un'altra cosa. Io me lo sono guardato e ho visto le partite contro UCF, South Carolina, Florida e Kentucky, che erano le quattro che si erano disponibili su Draft Breakdown, altrimenti per voi aver fatto questo e l'altro non ricordate di più. E ho visto un giocatore veloce, agile, con un gran motor, come si suol dire, e praticamente è sempre nel backfield avversario, a volte pure troppo veloce perché viene tagliato fuori dalla sua stessa velocità dalle azioni. Non è particolarmente forte, nel senso che vince con la velocità più che con la forza, e tende ad andare all'esterno dei tackle, mentre invece se dovesse andare all'interno avrebbe un po' più problemi probabilmente. E poi ovviamente potrete dirmi che sono un cretino, non capisco niente di football, ma è quello che ho visto io. È davvero velocissimo, perché veramente nei primi tre passi ha un'accelerazione straordinaria, non so se bara, nel senso cerca di indovinare lo snap count e quindi gioca su quello, però lo vedi proprio che scatta a razzo, e ha giocato sia defensive end che defensive tackle alcuni snap nelle partite che ho visto, e quando si trova in mezzo in realtà contro le corse è abbastanza scarso, cioè se le corse vanno dalla sua parte viene ribaltato dai bloccatori, viene portato in giro per il campo, mentre invece se le corse vanno dall'altra parte lui insegue l'azione con il gran motore che ha e riesce anche a fare il tackle in pursuit, diciamo. Altre cose che ho visto, beh, a volte ho visto abboccare le finte di play action, quindi rimaneva un po' così, freezed, però per esempio non veniva quasi mai raddoppiato, riusciva ad andare all'esterno da solo, non so perché non lo raddoppiassero visto che era così veloce. E un'altra cosa che volevo dire, che mi sono segnato, perché sennò con la testa che c'ho mi scordo, un sacco di spin move per uscire dai blocchi, per cui quando si trova bloccato si gira e va. E fondamentalmente è un buon giocatore, però non l'ho, sinceramente non l'ho ritenuto così da sbavo come si diceva. Nel senso, probabilmente sarà disponibile alla 30 perché alcuni lo danno addirittura come scelto al quarto giro dopo esatto. questi tempi. Però io sinceramente piuttosto gli preferirei, ok, un ruolo diverso, un Kendricks o uno Shaq Thompson, e alla fine anche questo Denzel Perryman non mi dispiace. E il pippone io l'ho finito su Shane Ray, penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Altre cose, tu mi dovevi fare una domanda? Sì, allora, visto che oggi tu non hai ascoltato Green and Gold, e penso che no, Green and Gold che è il podcast, quello di Jason Wilde, diciamo, ti faccio una domanda. Vai. Tu daresti, se fossi i Chicago Bears, ok, daresti Cat Cutler e la prima a Tennessee per andarti a prendere Mariota? Addio, se fosse un altro quarterback, sì. Però Mariota, a me sinceramente, non piace. Come... Poi magari mi sbaglierò, diventeranno Hall of Famer, per carità, però nella sua, cioè nel suo attacco del college, Chip Kelly style, ha fatto quello che doveva fare abbastanza... Parla del Chip Kelly style, esatto. Io ricordo un bellissimo post di Rolando dove criticava Mariota appunto per questo, è un bellissimo post, tra l'altro, anzi, mi ha fatto capire il sistema di Chip Kelly, il sistema di Oregon sostanzialmente. Mm-hmm. Io non lo farei, e invece, sia Jason Wilde che Bill Johnson, che probabilmente ce ne capiscono un po' più di me, tutti, loro due l'avrebbero fatto, perché e giustificavano così, perché comunque tu in Jay Cutler sai già quello che hai, ok? E per loro non è un quarterback che ti farà mai vincere il Super Bowl, e in Mariota, non sapendo quello che hai, potresti avere qualcosa di migliore. Sì, per l'amore di Dio, può essere sicuramente una chiave di lettura corretta, ok, però secondo me Chicago in questo momento il quarterback è l'ultimo dei problemi che possa avere, ok. Vai a prendere Mariota, ok, perdi la prima scelta, a parte che insomma Cutler è una prima scelta, per Tennessee non la farebbe mai, ok, per darti il secondo spot. Ha detto questo, anche se dicessi di sì, prendi Mariota e non hai offensive lineman, è una difesa che fa schifo. Mm-hmm. Anche se metti su 20, cioè anche se fosse un Hall of Famer o un comunque cosa finisci 8-8 se ti va bene. Cioè, i problemi di Chicago sono altri, insomma, un nuovo allenatore, una nuova dirigenza come quella che ha Chicago, io spero sbaglino, perché vanno a prendere Mariota, si giocano 5 prime scelte di prossimi 5 anni, ok, Mariota sia il più grande bus dopo Ryan Leaf, ok, cioè, secondo me la scegli, cioè, la costruisci dalle linee, sia quella offensiva che quella difensiva, e intorno ci costruisci la squadra. Poi, per l'amore di Dio, puoi avere il culo di prendere Brady al sesto giro che ti cambia la storia della franchigia, o avere Rogers che ti casca alle 24, ok, però non ci sono tanti in giro. Mi faceva solamente curiosità proporti questa questione e vedere come la pensiamo in maniera diversa da gente che ce ne capisce più di noi. Sì, di sicuro loro ne capiscono di più, però in realtà sono d'accordo anch'io, non farei tutto questo dispendio di risorse per... No, anche perché comunque Cutler sì, non ti fa sicuramente non ti farà vincere un Super Bowl, ok, però Cutler non è scarso, secondo me Cutler avrà problemi di più che altro di personalità, di non lo so, non lo vedo come una persona magari un po' debole. Problemi mentali. Esatto, problemi mentali, perché è vero, è arrivato a un championship con Chicago che ha perso contro di noi. Championship che poi nel quale è stato infortunato, poi ci sono state un sacco di storie, dietro, comunque un championship ci è arrivato. Un parere su due quarterback di quest'anno l'ho letto da parte di Ron Wolf, quindi uno che in teoria ne capisce, sì, più di tutti, esatto, noi messi assieme, e lui diceva che invece preferisce Jameis Winston a Mariota perché l'ha visto giocare diverse volte, ha visto anche le sue interviste nel processo, insomma, di avvicinamento al draft, e lo trova una persona più affidabile su cui lui costruirebbe una squadra. Io neanche su di lui, sinceramente, però se lo dice Wolf. Wolf è quello che ha creduto in Favre, quindi non era tanto un bel e buono ragazzino all'epoca, quindi sì, infatti. Ci sta. E io penso che noi per oggi abbiamo tediato fin troppo i nostri attualmente 3 spettatori. Ciao tre spettatori, sempre. Tutte le volte che guardo sono 3 comunque, quindi dico sempre ciao tre spettatori. Ad ogni modo, quindi fra poco più di 24 ore c'è il draft. Noi torniamo dopo il draft e dopo il meeting. Mi raccomando, ricordatevi il meeting. Se non venite, dite qualcosa, ma voi venite, fate prima, così non dovete dire neanche niente. Faremo anche le pagelle. Faremo le pagelle del flexible, vero? Facciamo di ogni, beh. Sì, ovviamente le nostre saranno un po' gonfiate perché non ovvio, possiamo. Ovvio, certo. E ci sentiamo quindi la prossima settimana. Vi racconteremo di come è andato il meeting, vi racconteremo soprattutto di come è andato il draft. Vi diremo chi e quando avremo come ospite. Abbiamo delle cose in serbo che vogliamo vedere. Esatto, se tutto va bene siamo rovinati. Infatti, quindi per adesso non diciamo niente, sappiate solo che stiamo lavorando per voi. Ecco, ospite all'improvviso, abbiamo un collegamento dalla draft room di dei Chicago Bears, visto che abbiamo parlato tantissimo. Posso passargli la linea? Vai. Ok, scusate, dopo... Ok, stavolta era preparata, eh? Esatto. Dovrei fare di questa la sigla. Esatto, finale, okay. Magari, adesso vedo, dai. Comunque, grazie a quei milioni che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno dopo in differita. Noi ce ne andiamo. E buon draft a tutti. E buon meeting a tutti. Ciao a tutti. Ciao, Matteo. Ciao, Sal. New York Bozo! New York Bozo!